2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook, su Twitter. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono disponibili in versione integrale, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Non è sempre detto che una chiacchierata di magari 20 minuti molto interessante finisca tutta nel nostro programma alla radio, ma nel podcast ci finisce tutta. Quindi vi consiglio di ascoltare il nostro programma via podcast, anzi di riascoltarlo. Ascoltate alla radio, ma anche riascoltatelo in versione integrale e sul nostro sito internet. Dunque, questa è la nostra ultima puntata estiva, poi torneremo alla nostra veste autunnale dalla prossima settimana. In questi giorni si è aperto a Berlino l'IFA e quindi tra le cose di cui parleremo nella nostra prima puntata della stagione ci sarà anche l'IFA con gli inevitabili mega trend. Ormai le fiere sono un ottimo luogo dove vedere cosa sta cambiando nell'industria dell'elettronica del consumo, della tecnologia in generale. Non sono più, ma questo l'abbiamo detto tante volte, luoghi dove vengono fatti grandi annunci. Molto spesso le aziende riservano questi grandi annunci a eventi organizzati ad hoc, ma sono sicuramente un luogo dove tutto assieme si vedono tutti i cambiamenti tecnologici dei prossimi mesi. In questa puntata vi ripropongo un paio di chiacchierate che ho fatto con Stefano Quintarelli, che è venuto a trovarci nei nostri studi per parlare di quello che, di alcune delle cose che ha scritto in un libro uscito qualche mese fa. Si intitola Costruire il domani. Stefano Quintarelli. Il libro si chiama Costruire il domani, sì, e non il futuro, perché il domani è imminente. Sì. E si chiama Costruire perché vuole dare un'idea di praticità. E poi dice le regole, perché cerca di spiegare quali sono le regole. Io ho dato da leggere le bozze ad Alberto Bombassei, che è il patron della Brembo. La Brembo è una multinazionale, sì, fa i freni, quindi ghisa, fonderia, roba così, no? E dopo che ha letto le bozze ha detto voglio scrivere la prefazione, che però mi aveva già preparato Pistorio, che invece era uno che aveva fatto la ST Microelectronics, che faceva la quarta azienda di microprocessori di componentistica elettronica, sì, al mondo. E alla fine l'hanno fatta insieme la prefazione. E un giorno Alberto Bombassei mi racconta e mi dice guarda, che è un signore che ha poco meno di 80 anni, 77 anni e non è quindi un digital native, non è un uomo che usa computer eccetera, cioè usa il telefonino per telefonare sostanzialmente, quindi non è un libro che è da pensare solamente per gente malata di tastiera, ecco. Sì, sì. E lui viene a me e mi dice voglio scrivere la prefazione e poi mi dice, noi abbiamo cominciato vendendo ai ricambisti le pastiglie dei freni e questa parte, l'aftermarket, costituisce ancora una grossa fetta dei nostri ricavi. E dice, io devo capire come mi devo rapportare con Amazon, se è un'opportunità o una minaccia. Ora, il fatto che qualcuno che non è un digital native, che non è un uomo che si occupa di tecnologia, apparentemente, la tecnologia ci occupa tutti, certo, cioè se non ce ne occupiamo noi è lei che si occupa di noi, che ha delle aziende, cose, quindi ha un livello molto alto, lui dice io devo pensare al mio rapporto con Amazon, ecco, questa è una cosa positiva del libro. Poi ci sono tanti altri esempi. Dopo, a valle di questo, mi ha invitato a fare una presentazione al suo comitato di direzione, quindi loro hanno due stabilimenti in Brasile, due negli Stati Uniti, uno in India eccetera, comitato di direzione tutto dedicato alla presentazione del libro, a discutere come gli effetti delle cose scritte sul libro si possono tradurre in una cosa che fa freni. Cioè pinza, sì, dei freni e pastiglie, cioè dovranno di fare ferro. Il commercio elettronico anche loro, ma non è solo quello, perché faccio un esempio: quanto materiale va messo in una pinza del freno per assicurare che freni sempre nelle migliori condizioni? Non è una cosa nota scientificamente, è fatto empiricamente. Allora tu immagina, allora intanto bisogna capire che un prodotto è tutto l'insieme di cose che vanno dalla sua concezione, studio, prototipizzazione, analisi di mercato, produzione, distribuzione, vendita, assistenza, smaltimento. Un prodotto è tutto questo. Sì. Allora, se noi consideriamo solo l'oggetto fisico, però consideriamo tutta questa filiera. Allora, pensa di avere a disposizione la possibilità di mettere dei sensori, visto il fatto del costo dell'elettronica che diminuisce, dei sensori connessi, visto il fatto che la rete connette sempre tutto ovunque, e poter sapere di ogni frenata l'intensità, il fondo stradale, l'umidità, se pioveva, e per ogni singola ruota e via dicendo. È come avere un laboratorio con milioni di auto che ti danno i dati, che tu metti, visto che raccogliere i dati non costa, perché raccogliere non costa, come dicevamo prima, archiviarli non costa, trasferirli non costa, ha un costo marginale quasi nullo, non richiede tempo, l'elaborazione la fanno le macchine, con sistemi di intelligenza artificiale tu puoi ottimizzare la quantità di ghisa che metti in una pinza e avere un vantaggio competitivo enorme. Ed è esattamente lo stesso fenomeno dell'aereo che volava pieno, vuoto, e adesso vola pieno, e della pinza che adesso c'ha dentro, non so, 4 etti di materiale in più, che poi non avrà e sarà ottimizzato e sarà meno impatto energetico, ambientale, eccetera. Quindi è una cosa, questo è quello, l'integrazione delle tecnologie dell'informazione, di internet, della digitalizzazione, di questa parte immateriale all'interno della materialità, è quello che va sotto il nome del paradigma della quarta rivoluzione industriale, dell'industria 4.0. Quindi questo è un libro che cerca di spiegare quali sono le cose che stanno sotto questi fenomeni e perché è una cosa che riguarda tutti, e riguarda tutti sia da chi produce la Mattel, il gioco che è sostituito dall'applicazione, ma anche da chi fa servizi, ma anche di chi fa pinza dei freni dai metalmeccanici duri e puri. Sì. Che Dio li abbia in gloria. Esatto. Dammi alcune pennellate su alcuni futuri. Futuro della scuola. Beh, il futuro della scuola. No, il futuro della scuola in realtà sì, è complicato, perché allora il fatto è che la società è sfilacciata, come dicevamo prima, no? Il futuro è già qui, ma non è distribuito in un modo uniforme, dice Gibson, che è uno scrittore di fantascienza. Noi abbiamo la società sfilacciata anche la scuola. Il grosso del problema non sono educare i ragazzi all'uso delle tecnologie, ma gli insegnanti. Ma aggiornare gli insegnanti, sì, non tanto all'uso delle tecnologie, ma a capire come bomba sei, a capire come le tecnologie possono essere usate in modo efficace per aiutarli a fare quello che loro sanno fare, cioè prendere per mano dei ragazzi e accompagnarli nella scoperta di un tema. Questa è la grandissima sfida. Il futuro della scuola è insegnare ai ragazzi ad essere curiosi, ad imparare, a saper separare la farina dalla crusca, a saper essere originali, a stimolare la loro creatività, a saper lavorare in gruppo, a saper lavorare con le tecnologie. Tutto questo è il futuro della scuola e sta già accadendo. A Bergamo poco tempo fa ci sono stati gli stati generali della scuola italiana, dove non mi ricordo, c'era una in fiera, c'erano, non mi ricordo, 2000 persone, docenti da tutta Italia venuti per discutere di queste cose. Quindi è già un fenomeno che è partito, solo che non è distribuito in modo uniforme. E come tutte le cose esponenziali, quando cominciano ti sembra che non sia niente, poi a un certo punto, quando te ne accorgi, è perché sono esplose. Esatto. Le banche spariscono. Le banche si devono trasformare abbastanza. Le banche, devo dire che anche qui c'è stata una regolamentazione, che è la Payment Service Directive 2, la PSD2 cosiddetta, che di fatto stabilisce che le banche diventino delle erogatrici di servizi. La banca, per come la immaginiamo, con lo sportello, la filiale nel paese, eccetera, è destinata a contrarsi enormemente. Tenderanno a diventare delle organizzazioni di servizi che offriranno i propri servizi di back-end, di back-office, a dei soggetti privati, a dei soggetti che integreranno delle funzioni bancarie all'interno delle loro applicazioni, ad esempio il rating dei consumatori. Sto facendo una trattativa con te, ti devo vendere delle scarpe e avrò il dato di rating plugged into un'applicazione collegato che mi fornisce la banca. Che ti fornisce la banca. Perché sa tutta una serie di cose su di me. Certamente. Certo. Futuro del cinema. Anche lì ci sarà una pressione sull'attuale struttura economica dell'industria, nel senso che quando tra poco, tra veramente molto poco, ci sarà il tema che produrre sinteticamente costerà meno che non produrre realmente. Cioè Avatar, che abbiamo in mente tutti, era una roba che era costata uno spatafionte, no? Sì. Di quattrini. Non era una... Adesso produrre in quel modo costerà sempre meno. Cioè senza gli attori? Gli attori, diciamo che avrai dei modelli matematici degli attori, e allora tu avrai dei marker per cui il regista farà la sua espressione, il suo movimento, o un attore farà il suo movimento, eccetera, green screen, riprendi tutto, eccetera, e poi ricostruisci su quello. Cioè già oggi sta accadendo, già oggi hai tutte queste scenografie, però sono ancora dei colossal. Questa roba tenderà a diventare da colossal a minimal, E questo si porterà dietro. Allora posso immaginare che ci saranno degli attori che saranno padroni del proprio modello matematico, che venderanno, che per cui io ti darò il diritto di sfruttamento del modello. Quindi allora io mi potrei scaricare l'attore tal dei tali e farmi un film in casa, quasi. Se riuscirai a pagare l'attore tal dei tali, perché certo, cioè, il, sarà questo, cioè, il, l'attore diventa il brand a cui sei affezionato, no, in qualche sì, modo. Sì. E potrebbe voler dire che qualche attore ce lo vedremo per i prossimi 200 anni sempre uguale a se stesso, poi la gente si annoierà. Però sì, il tema è che la produzione tenderà a diventare sempre più digitale e sempre più erogata as a service e con sempre meno intermediari di quelli tradizionali, un'intermediazione diversa fatta da chi gestisce questi sistemi. Allora, tu Stefano, nel libro che hai pubblicato ormai qualche mese fa, Costruire il domani, ci parli anche del futuro delle indagini. Questo è un tema molto, molto, molto interessante e anche molto importante. È un tema molto spinoso perché attiene direttamente ai diritti delle persone e nel nostro caso che risalgono alla Costituzione, quindi qui c'è un tema. In realtà, cito di nuovo la massima di Gibson, il futuro è già qui, solo che non è distribuito in un modo uniforme. Quello che succede con lo sviluppo dell'elettronica è che i terminali diventano sempre più potenti e l'intelligenza si sposta nei terminali. Questo vuol dire che la commutazione non avviene più in un luogo centrale dove era sufficiente attaccare uno spinotto, ma la comunicazione avviene direttamente tra i due endpoint, peer-to-peer. Visto che l'elettronica aumenta di performance, a parità di costo si riduce il costo, tutte queste comunicazioni tendono a diventare cifrate. Dopo che è uscito il libro abbiamo visto con WhatsApp, per dire, quindi in qualche modo sta andando in quella direzione. E allora la domanda è: possiamo immaginarci un futuro di indagini di polizia dove non esiste più la possibilità di fare intercettazioni perché le comunicazioni sono dirette tra gli utenti e cifrate? Cioè possiamo pensare a un sistema di enforcement, a un sistema delle attività di polizia, di sicurezza, che prescinda totalmente dallo strumento delle intercettazioni? Beh, io ho seri dubbi, tant'è che da noi sono disciplinate anche nella Costituzione. Quindi il tema è, ora, se pensiamo che questo debba accadere, che questo accadrà per effetto, ma perché magari non accade solo in Italia, accade da altre parti che vengono anche in Italia, insomma. Cioè che tutte le comunicazioni siano cifrate. Questo accade, protette, questo accade, sì? questo fa parte dell'evoluzione. Comunque, quantomeno tutte le comunicazioni dei cattivi, diciamo. Sì. Allora, non è che puoi dire se tu usi comunicazioni cifrate allora sei cattivo, perché io uso comunicazioni cifrate magari anche per parlare con l'amante, no? Che non è un reato. Cioè magari alla moglie dispiace, però, però non è punibile, esatto, non è che va in galera, esatto, sì. No, per questo. Quindi è pensabile? No, non è pensabile vietare la cosa e usare e pensare che la cifratura sia un reato. Quindi bisogna intervenire sui dispositivi. Il problema è che nel momento in cui io intervengo sui dispositivi, cioè vado a mettere del software, i famosi Trojan o captatori, sì, di stato, sì. Di Stato o non di Stato, adesso ci arriviamo, sui dispositivi degli utenti, il problema è che quelli non si limitano ad essere solo degli agenti di intercettazione, quelli di fatto prendono il controllo del terminale e il terminale è la principale interfaccia utente dell'utente con il mondo. Cioè buona parte della nostra vita è lì dentro. È lì dentro, sì. Storicamente ci sono tante cose, ma della nostra vita anche nel più minimo dettaglio, no? Quando io ti mando una faccina per fare il cretino, no? Piuttosto che dico guarda quello là che cretino che è, tutto questo viene catturato e rimane lì per sempre, quindi è l'estensione per la durata del tempo, la profondità per la quantità di robe, ma non è solo questo, quindi non è solo l'intercettazione di un flusso di comunicazione, prendere il controllo del dispositivo, che vuol dire che chi prende il controllo del dispositivo può anche usarlo a fini suoi e quindi magari mandare messaggi che poi cancelli e tu non vedi, però io ricevo un messaggio da te. Quindi c'è tutto un tema che è veramente molto complicato, perché l'uso di questi strumenti va ben al di là di quello che sono le previsioni che ci sono nei diritti costituzionali. No, e finisco con questo, scusa un secondo. Quindi il tema è come si riconduce questa possibilità di uso all'interno delle garanzie costituzionali, perché il terminale è il nostro terminale è una protesi cognitiva della persona, è una parte della persona. A questo noi non siamo preparati. Non siamo preparati, e chiaramente va fatta una riflessione, no? Però noi non siamo preparati. Diciamo che da una parte c'è chi lo vede come una banale intercettazione telefonica o ambientale, ma così non è. Dall'altra parte c'è invece chi dice no, assolutamente nessuna intercettazione. ma non è pensabile che si viva in un mondo dove chi commette reati non sia intercettabile. Ripeto, ci sono all'interno del nostro ordinamento da sempre, quindi bisognerà andare a trovare un equilibrio lì dentro, che non è un equilibrio facile. È un caos. E bisogna agire non portati dall'emotività, cioè prendere una decisione di questo genere perché c'è stato un attentato, perché c'è stato un furto, perché c'è stato uno scandalo politico, sarebbe profondamente sbagliato. Bisogna fare una riflessione alta in momenti di calma relativa. Allora, se ho capito, oggi le intercettazioni classiche intercettano le tue telefonate, ok? La perquisizione fisica prevede che la polizia entri in casa tua e ti perquisisca la casa, l'ufficio, eccetera, eccetera. Quello che tu stai dicendo, cioè facendo notare, è attenzione che invece se noi andiamo a fare una cosa che potrebbe essere simile ad una perquisizione, perché ti entro nel telefono oppure ti entro nel computer, va molto oltre a quello che succede nel mondo fisico, perché lì c'è tutta la nostra assolutamente. vita. E nel mondo fisico abbiamo delle norme, tipo che tu non puoi entrare a fare una perquisizione, a meno di casi specifici, prima di una certa ora di mattina, che devi notificare la cosa all'indagato e si deve poter assistere lui e un suo avvocato, eccetera, e che all'interno della casa non puoi essere intercettato a meno che non ci sia l'idea che in quel momento si sta svolgendo un reato. Ci sono tutta una serie di cose, tutte queste robe saltano completamente con l'uso di queste cose. Quindi questo è il tema del futuro. Il problema del futuro è trovare un punto di equilibrio che garantisca i diritti costituzionali e che consenta di fare quelle cose che oggi si fanno e che andranno fatte in un modo diverso. E questa cosa, ripeto, non può essere una riflessione, non può essere un provvedimento, come è capitato due volte, io ne ho fermato uno, cioè è capitato un paio di volte, uno non è andato, l'altro sono intervenuto io l'anno scorso, non può essere fatto sulla base del momento dell'emotività, deve essere un momento di riflessione anche prolungata, pacata, prolungata, elevata e con coinvolgimento di tutti gli attori, di società civile, eccetera. Ultimi 5 minuti per parlare di uno dei tanti futuri, ma anche in questo caso molto importante, molto complicato e molto vicino alla nostra vita, il futuro della sanità. E qui, quando parliamo di dati sanitari, parliamo di una delle cose più preziose. Beh, allora, nel libro parlo solo della genomica. Perché parlo della genomica? Perché quella è la cosa, diciamo, il libro ha un'impronta ottimista, no? Cioè noi tendiamo a parlare del futuro in termini catastrofistici, perché tendiamo a sopravvalutare gli effetti di breve periodo e sottovalutare gli effetti di lungo periodo. Quindi ci sembra che quello che sta per accadere nei prossimi anni sia, non è così. Quindi l'impronta del libro è, non voglio dire ottimistica, dal mio punto di vista è realistico. L'unica punta di pessimismo che metto riguarda questo tema della genomica. La sanità, beh, avrà una grande quantità di trasformazioni legate al fatto della sensoristica, del controllo, del monitoraggio, dei farmaci, cioè enorme, in ogni settore, della diagnostica, quindi ci sono... della medicina di precisione, ci sono tantissimi ambiti dove l'innovazione andrà a trasformare radicalmente il modo di fare salute, e dico fare salute, non di curare, incluso il cibo, no? Il modo come ci nutriamo, il miglioramento della nutrizione, come ci spostiamo e via dicendo, come ci muoviamo e via dicendo. La genomica ha un tema particolare che in qualche modo un po' mi inquieta, che è questo tema dell'editing genetico, le tecniche di editing genetico, che sono praticamente il portato dello sviluppo dell'elettronica in ambito genetico, laddove esistono delle tecniche, delle tecnologie che consentono oggi per poche centinaia di dollari di fare delle manipolazioni genetiche andando a fare taglia e incolla di pezzi di DNA da una cellula a un'altra, e quindi di alterare strutture DNA. Queste cose, il livello così basso di costo determinato dal calo dei costi dell'elettronica porta questo tipo di tecniche a un bacino enorme che può andare ben al di là dei grandi laboratori in cui queste cose erano confinate prima, e questo può avere dei risvolti che, insomma, sui quali va fatta molta attenzione, no? Ci sono stati degli scienziati che hanno chiesto una moratoria dell'intervento di questo tipo dell'uso di questo tipo di tecnologie sull'umano, però è già stata violata quella moratoria, e questo in qualche modo un po' mi preoccupa. Ed è tutto per questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.